intensi, pieni di parole, pensieri che vorresti far arrivare dritto al cuore. Ed io non so sentire quanto forte l'emozione, seduti in una stanza che congela il nostro amore. Amore che iniziò nel buio di una festa in casa, ma quanta gente c'era, ti ricordi che serata? Guardavo te che timida ridevi nella stanza, sorriso che a pensarci non potrei più farne senza. Adesso che ti vedo quasi come fosse ieri, capisco quante volte mi hai toccato coi pensieri, per dirmi che hai bisogno di sentire il mio respiro, per dirmi che vorresti che ti stessi più vicino. Ti troverò. Piano tra le dita in mente una certezza, si confonde dentro questa stanza senza luce, che batte nella testa e non mi vuole far dormire. Di notte puoi trovare nei miei sogni senza senso un muro che da tempo io mi sto portando dentro, che voglio abbattere senza fermarmi un istante. La luce è già